Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio sul web ondarossa.info. Allegro con Fuoco che apre i suoi microfoni quando sono le 20.07, sempre con la musica di Hans Eisler, la musica che questo compositore ha voluto fare per la lirica di Bertolt Brecht, L'Ode al comunismo, che abbiamo anche tra l'altro presente all'interno dell'opera che appunto fecero Hans Eisler e Bertolt Brecht di Mutter, la madre. E quindi abbiamo questa musica che ci siamo dati come sigla nella versione iniziale cantata dalla voce di Carmen Maiantoni e poi nella versione finale cantata con un'altra versione, proprio una versione tratta dall'opera di Mutter di Bertolt Brecht e Hans Eisler. Quindi a salutare tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che sono collegati in questo momento o con 87.9 o con il web su ondarossa.info, a salutare tutti quanti e tutte quante e in particolar modo dare un abbraccio a chi ci segue privato della propria libertà personale. Tutti i compagni e le compagne, proletariato, imprigionato o costretto agli arresti domiciliari o alla latitanza. Quindi questa sera vogliamo aprire con un pezzo di Tchaikovsky, Pieter Ilyich Tchaikovsky. La volta scorsa abbiamo avuto una piacevole telefonata da parte di un ascoltatore appunto che avrebbe avuto il desiderio di ascoltare qualcosa per violino e la volta scorsa non avevo portato nulla, mentre questa volta mi sono preso un po' di pezzi e il primo che vogliamo mandare in onda e che dedichiamo naturalmente a tutti voi e a tutte voi, in particolar modo a chi ci ha chiamato la settimana scorsa e che spero sia in ascolto, è il tratto dal concerto per violino orchestra di Pieter Ilyich Tchaikovsky, il primo movimento allegro moderato. Abbiamo qua questa versione della Wiener Philharmoniker diretta da Claudio Abbado e che vede al violino solista Nathan Milstein. Quindi vi lascio con questa musica, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, una radio che sapete è dal 1977 che va avanti solamente attraverso il sostegno degli ascoltatrici, ascoltatori, compagni e compagni che la sostengono attraverso il numero di conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Le Volsce numero 56 001 85, Roma, o anche attraverso il sito internet dove c'è appunto il percorso per sostenere Radio Onda Rossa attraverso la moneta elettronica tra virgolette, oppure venendo qua in radio e dare il proprio contributo oppure naturalmente partecipare alle iniziative messe in campo sui territori da Radio Onda Rossa. Quindi dopo queste insomma doverose comunicazioni vi lascio a questa musica, la musica di Tchaikovsky dal concerto per violino e orchestra, e appunto nella versione che poc'anzi vi dicevo. A tutte voi e a tutti voi un buon ascolto. Thank you. Thank you.

Radio Onda Rossa 87900 della modulazione di frequenza, telefono 06491750. Era questo l'ascolto del primo movimento che ci siamo ascoltati del concerto per violino e orchestra in D minore. E di Piotr Ilyich Čajkovskij. Dunque, scusate, c'è avuto un momento di in re maggiore opera 35. Era il primo movimento, l'allegro moderato, nella versione che abbiamo qua della Wiener Philharmoniker diretta da Claudio Abbado e che vedeva al violino solista Nathan Milstein. E quindi questo era il primo ascolto che ci siamo fatti per quanto riguarda la ripresa, che l'abbiamo abbandonato da un po' di tempo, del violino e di questo magnifico strumento che appunto abbiamo avuto l'altra volta uno spunto grazie a una telefonata per ricordarci appunto quanto sono grandi le potenzialità di questo strumento, e le potenzialità di questo strumento sono messe in luce nel prossimo pezzo che andremo ad ascoltare, in quanto ci andiamo ad ascoltare di Johann Sebastian Bach la partita numero 2 in re minore, la Bach Werke Verzeichnis 1004. Direi sì, di questa ci andiamo ad ascoltare nella versione completa, nei suoi cinque tempi: Allemande il primo, Courant il secondo, Sarabanda il terzo, Giga il quarto e il quinto, appunto la ciaccona è l'ultimo movimento di questa partita per violino solo, ricordiamolo, e di Johann Sebastian Bach, un pezzo che viene molto spesso eseguito e staccato da tutta l'opera, perché insomma è un capolavoro. Appunto questo, vabbè, a parte che Bach è un grandissimo della musica, insomma, penso che insomma tutti quanti si sono basati sulla sua musica nelle produzioni che sono venute, un autore del barocco che comunque si è sviluppato in certe forme veramente eccezionali dal punto di vista musicale. E appunto ci andiamo ad ascoltare quest'opera nella esecuzione di Gidon Kremer, non so, penso insomma sì, mettiamolo come diciamo una parentesi, e Gidon Kremer suona un particolare tipo di strumento che appunto è il guardiani del Gesù. E questo è uno strumento molto particolare, è sempre un violino naturalmente, però è un suono molto particolare, delicato, quasi vellutato. Infatti insomma ho diverse versioni di quest'opera e insomma si può percepire la differenza tra da un guardiani del Gesù e un altro strumento, e ce ne sono insomma tanti. Quindi vi lascio il vostro ascolto ai vostri preziosi orecchi, e spero insomma sia un ascolto gradito. E dunque vi dico solo la ciaccona, l'ultimo movimento dura 14 minuti, gli altri insomma sono di 2 o 4 o 3 minuti, quindi comunque è un ascolto veramente veramente molto molto buono, molto molto apprezzabile, anche perché in questo unico strumento esegue certi tratti, sembra insomma che siano siano a suonare, non so, quasi un intero raggruppamento di musica da camera. E comunque niente, le vostre orecchie giudicheranno meglio all'ascolto. Quindi sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e vi mandiamo la partita numero 2 per violino solo di Johann Sebastian Bach. A tutti voi un buon ascolto. Thank you. Thank you.